Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La scissione è sicuramente qualcosa che non fa bene alla sinistra, tra l'altro la storia della sinistra è piena di scissioni che non hanno quasi mai portato bene agli scissionisti. Io credo in questo momento i nostri elettori, il nostro popolo non voglia scissione, voglia unità. Iniziamo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa nuova settimana di Effetto Notte con i tormenti del PD. Avete sentito il presidente del Partito Democratico Orfini che, tornando sul tema della possibile scissione, dice: in realtà la scissione non fa bene al PD, non fa bene al centrosinistra, i nostri elettori non la vogliono, e poi la scissione ha portato sempre male agli scissionisti. Stasera ha parlato però anche D'Alema, il quale ha detto: in realtà, se Renzi non si decide a fare presto il congresso del partito, porta necessariamente alla scissione. E se, dice D'Alema, dovesse nascere un nuovo partito a sinistra del PD, avrebbe almeno, anzi supererebbe il 10%. Poi ne parleremo di questo. Raggiungeremo anche il sindaco De Magistris, sindaco di Napoli, che invece parla di un nuovo movimento che sta nascendo, dovrebbe annunciarlo ufficialmente la prossima settimana, ma noi cercheremo di raggiungerlo prima. E poi ci occuperemo invece di notizie a livello internazionale, delle tante grandi proteste nei confronti di Trump, del fatto che abbia voluto congelare gli ingressi degli immigrati, soprattutto da paesi islamici, per qualche mese. E ci occuperemo anche dell'attentato che c'è stato oggi in Canada. Di solito non si parla mai di Canada, oggi c'è stato questo attentato, anzi ieri, diciamo, per parlare con l'ora canadese, in una moschea, con 6 fedeli morti e diversi feriti. Quindi seguite Effetto Notte dal primo momento, da adesso quindi fino alle 22, sempre insieme, per avere un quadro aggiornato di tutte le notizie più importanti della giornata dall'Italia e dall'estero. 349-238-6666 il numero per WhatsApp ed SMS, se volete scrivere osservazioni, fare domande, oppure c'è sempre lì per voi la pagina Facebook di Effetto Notte. Prima di tutto, come sempre, il riassunto della giornata. Stati Uniti, americani in piazza contro il bando agli immigrati di Trump. Il presidente è contestato anche dalle grandi aziende e dall'Europa, e l'ONU parla di divieto illegale e meschino. Canada, attacco alla moschea a Quebec City, 6 morti, sospettato un giovane franco-canadese. Il primo ministro Trudeau parla di un vile attacco ai musulmani. Mercati finanziari nervosi, il Dow Jones scivola sotto i 20.000 punti, Milano la peggiore in Europa, Unicredit cede il 5%. Roma, via libera al bilancio di previsione 2017-2019 della capitale, Raggi e Movimento 5 Stelle applaudono. Le fibrillazioni nel PD, il presidente Orfini torna sul tema della scissione, non fa bene alla sinistra, dice, ma D'Alema avverte: senza congresso si va alla scissione e a un nuovo partito della sinistra potrebbe superare il 10%. Nel frattempo il sindaco di Napoli De Magistris annuncia la nascita di un nuovo movimento politico, Effetto Notte spiega di cosa si tratta. Arrestato il procuratore della Repubblica di Aosta e domiciliari per induzione indebita e dare o promettere utilità. Maturità 2017, l'attesa è finita, pubblicata la lista delle materie per la seconda prova d'esame. Allo scientifico non ci sarà la temuta fisica. Videogiochi, è morto Masaya Nakamura, il papà del Pac-Man, fu uno dei primi videogiochi virali negli anni 80. Partiamo quindi da quello che sta avvenendo negli Stati Uniti. Dopo la decisione del presidente Donald Trump di congelare per 4 mesi l'immigrazione e vietare l'ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di 7 paesi islamici, mentre migliaia di americani continuano a protestare nelle piazze, arriva la dura presa di posizione dell'ONU sulle ultime decisioni appunto di Trump. Il bando verso i cittadini di 7 paesi islamici imposto da Donald Trump, dice l'ONU, è illegale e meschino. Intanto diverse aziende si schierano contro questa decisione del presidente americano. Starbucks, per esempio, si ribella e dice: nei prossimi 5 anni assumeremo 10.000 rifugiati. Poi decine di diplomatici e funzionari del Dipartimento di Stato sono pronti a firmare un memorandum di dissenso. Nobel e ricercatori contro il bando anche loro. In Gran Bretagna ha superato il milione di firme la petizione che chiede di annullare la visita di Stato di Trump. Poi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti, torneremo a parlarne. E dall'America al Canada, dove 6 persone sono rimaste uccise, 8 ferite in un attacco a colpi di arma da fuoco nella moschea di Quebec City, mentre erano presenti numerosi fedeli. Tra le vittime anche l'imam, 2 le persone arrestate con l'accusa di essere killer, uno di loro però di origine marocchina è stato rilasciato. Un attacco nell'ora della preghiera, una strage in moschea che colpisce il cuore multiculturale del Canada. Ha urlato Allah Akbar prima di aprire il fuoco sugli uomini inginocchiati sul tappeto. In sei resteranno senza vita, compreso l'imam. L'incredulità di Quebec City aumenta con le prime ricostruzioni della polizia. A sparare sarebbe stato un ventenne studente dell'Università Laval, dalle origini franco-canadesi, Alexander Bisonet, viso da bambino e cappellino da baseball nelle foto diffuse dalla polizia. Per tutto il giorno i sospetti ricadono anche su un marocchino, ma in realtà sarebbe solo un testimone. Il grido Allah rafforza la pista dell'attentato jihadista rispetto all'azione xenofoba in una zona dove gli episodi di islamofobia sono comunque aumentati. È un attacco terroristico contro i musulmani, non esita a dire il premier Justin Trudeau, e il primo ministro del Quebec, Philippe Couillard, ai fedeli dell'Islam dice: siamo con voi e continueremo a costruire una società aperta, accogliente e pacifica. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi torneremo su quanto è successo in Canada. Parliamo adesso dei mercati. Oggi è stata una giornata nervosa perché hanno cominciato a scontare i timori legati al nuovo corso presidenziale americano. In Europa la peggiore è stata Piazza Affari, dove pesa l'incognita banche. Pesante il calo di Unicredit, che ha annunciato perdite superiori agli 11 miliardi per il 2016. Le ripercussioni delle prime mosse politiche di Donald Trump si fanno sentire anche sui mercati finanziari. I timori di turbolenze preoccupano gli investitori. Wall Street oggi ha aperto in calo, con il Dow Jones sceso sotto la soglia dei 20.000 punti. Male soprattutto le compagnie aeree statunitensi, affondate dal decreto sull'immigrazione firmato dal neo presidente americano. L'andamento di Wall Street ha affossato anche i listini del vecchio continente, che avevano già aperto in territorio negativo dopo i dati sull'inflazione in Germania, risalita ai massimi dal 2013. A fine giornata Londra, Parigi, Francoforte e Madrid hanno messo a segno perdite attorno all'1%, maglia nera Milano, che ha ceduto invece il 2,95%, trainata al ribasso in particolare dai titoli del comparto bancario, fra i peggiori UbiBanca, Unicredit e Intesa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Notizia che riguarda la pubblica amministrazione: il ministero guidato da Marianna Madia sta mettendo a punto un piano straordinario per superare il precariato storico nella pubblica amministrazione in via definitiva. Il decreto sul pubblico impiego descriverà una strategia per risolvere nell'arco del biennio 2018-2020 la questione. E siamo alla politica, con le divisioni all'interno del PD. La discussione ruota ancora intorno al congresso. Continua il pressing di Matteo Renzi per il voto subito dopo Rimini. Il segretario traccia il suo PD: basta un partito di tasse, bisogna rottamare il governo Dracula alla base di alcuni ministri del centro-sinistra e dell'esecutivo Monti, piuttosto scommettere su un fisco amico. Il 2017 ha frantumato il record storico di recupero dell'evasione, 17 miliardi. Renzi poi riprende il ragionamento sull'IRPEF e promette che il 2013 è stata l'ultima volta che aumenta l'IVA. Ma nel partito soffia il vento della scissione, anche se il presidente Dem Matteo Orfini risponde così. Ma la scissione è sicuramente qualcosa che non fa bene alla sinistra. Tra l'altro la storia della sinistra è piena di scissioni che non hanno quasi mai portato bene agli scissionisti. Orfini poi spiega che non si può celebrare il congresso prima di giugno, un'apertura alla minoranza che chiede insistentemente si faccia prima del voto. Lo torna a ribadire Massimo D'Alema. Senza, spiega, sarà Renzi che farà la scissione e che imporrà la frattura. In sostanza, questa è la tesi della minoranza: il segretario non si può fare da solo le liste per le elezioni. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Torneremo anche su questo più tardi, quindi nel corso dell'effetto notte. Nel frattempo, vi dicevo, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris annuncia la nascita di un nuovo movimento politico e dovrebbe essere ospite più tardi qui effetto notte. Adesso spostiamoci su Roma. C'è stata via libera al bilancio. L'aula Giulio Cesare, presieduta da Marcello De Vito, ha approvato con 29 voti favorevoli e 15 contrari il bilancio di previsione 2017-2019 di Roma Capitale. Presenti anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, diversi assessori che al termine del voto, insieme consiglieri di maggioranza, hanno applaudito in aula. La manovra vale 5 miliardi e 300 milioni di euro. Nel triennio il piano investimenti è di oltre 577 milioni, di cui ben 430 saranno dedicati ai trasporti e alla mobilità sostenibile. Sentiamo la sindaca Virginia Raggi. Roma approva il bilancio prima di tante altre grandi città italiane. Milano, non pervenuta. Mi spiace solo dover evidenziare che per le altre città non ho letto o sentito parlare di rischio default o commissariamento del comune, come invece fatto per noi. Adesso parliamo di Aosta. Il procuratore capo della Repubblica di Aosta, facente funzioni Pasquale Longarini, è stato arrestato oggi nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica milanese competente sulla magistratura aostana e condotta dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano. Il reato contestato è induzione indebita a dare o promettere utilità. Il magistrato è stato posto agli arresti domiciliari. E per la cronaca, è sopravvissuto allo schianto che è costato la vita, vi ricordate, a 16 persone, di cui 11 minorenni, l'autista che si ritiene fosse alla guida del pullman ungherese che era finito contro un pilone e poi si era incendiato sulla 4 a Verona il 20 gennaio scorso. L'uomo, 52 anni, ungherese, è stato iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di omicidio stradale nell'inchiesta condotta dal PM Nicola Scalabrini. E poi Rigopiano, l'inchiesta di Rigopiano, ascoltato da investigatori per oltre 3 ore oggi, il sindaco di Farindola, il paese sul quale territorio sorgeva l'hotel Rigopiano, che è stato travolto dalla valanga il 18 gennaio scorso, è stato ascoltato come persona informata dei fatti nell'ambito dell'inchiesta aperta dalla Procura di Pescara per disastro colposo e omicidio plurimo colposo. Sostanzialmente il sindaco di Farindola avrebbe confermato quanto già dichiarato nei giorni scorsi alla stampa, ha infatti ripetuto di non aver ricevuto il bollettino Meteomonte che segnalava un rischio valanga 4 su un massimo di 5 e ha spiegato di aver fatto fronte all'emergenza con i mezzi che aveva a disposizione attivando le forze di protezione civile nell'ambito del piano neve comunale. Il processo Stato Mafia, la sorpresa, è arrivata a udienza chiusa quando la Corte stava per lasciare l'aula. È stato allora che il boss Totò Riina ha fatto sapere attraverso il suo legale che risponderà alle domande dei PM e degli avvocati nel processo sulla trattativa Stato Mafia, un colpo di scena che le parti non si aspettavano. Sarebbe la prima volta che il padrino corleonese si sottopone all'esame, che difficilmente però porterà a delle novità sostanziali per il dibattimento che cerca di far luce appunto sul presunto patto tra i boss e pezzi delle istituzioni. La maturità, adesso l'attesa per i circa 500.000 maturandi d'Italia è finita. Comunicate oggi le materie della seconda prova dell'esame di Stato, latino al liceo classico, matematica allo scientifico, lingua 1 vale a dire inglese nella gran parte dei casi, al linguistico. L'elenco completo poi sul sito www.istruzione.it. La gran parte degli studenti ha tirato un sospiro di sollievo, ma per qualcuno rimangono motivi di ansia. Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, è al microfono di Roberta Pellegatta. Si temeva tanto fisica per gli studenti di liceo scientifico, invece è stata scelta la più tradizionale matematica, materia sulla quale gli studenti si vanno più sicuri, anche numeri alla mano, guardando appunto le simulazioni nazionali che il MIUR ha proposto in passato. Tuttavia fisica ha colpito, ma gli studenti del liceo linguistico, che si sono lamentati per la scelta del commissario esterno di fisica e quindi molto probabilmente la proposizione della stessa materia, anzi quasi certamente in terza prova. Per il resto tutte scelte che non sembrano aver suscitato un grosso clamore, anche se c'è da dire che alcuni sono stati presi di sorpresa dalla scelta del commissario di italiano, quindi per la prima prova esterno. Anche lo scorso anno era stato scelto un commissario di italiano esterno e in virtù di una regola dell'alternanza non scritta ma spesso applicata, gli studenti si attendevano che l'italiano fosse interno. Quindi in alcuni indirizzi dove la prima prova è quella giudicata più complessa, la cosa non è stata chiaramente accolta bene. In altri indirizzi, come ad esempio lo scientifico, dove la seconda prova è invece la più complessa, avere un commissario interno ha sicuramente giovato. Ed è morto a 91 anni il padre di Pac-Man, uno dei primi videogiochi, vi ricordate tutti, più popolari al mondo, Masaya Nakamura, fondatore della compagnia giapponese Namco, che realizzò il videogioco nel 1980. Lui stesso scelse la parola Pac per rappresentare lo sgranocchiare di Pac-Man delle sue prede. E questo gioco uscì sul mercato in un momento in cui c'erano pochi videogiochi concorrenti, a partire da Space Invaders, ma si stima che sia stato giocato più di 10 miliardi di volte, diventando un icona della cultura popolare. E per chiudere adesso il calcio, stagione a rischio per il milanista Bonaventura, infortunatosi ieri nel capo rossonero Udine. Per il centrocampista, lesione tendinea agli adduttori e intervento chirurgico con uno stop di almeno 4 mesi. Fuori un mese invece il difensore De Sciglio, infortunato a una caviglia. Ora direi di prenderci questa piccola pausa per aggiornare come sempre a quest'ora chi sta viaggiando. Accetto le scuse dell'ascoltatore che mi aveva attaccata così ingiustamente, come poi ha detto a proposito di una notizia che non c'era. E voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Questo ascoltatore o ascoltatrice non si firma, mettete almeno un nome d'arte, dico, scrive: la stessa cosa che ha fatto Trump l'ha fatta Obama per 6 mesi e non 3 nel 2011 e nessuno ha protestato. Tra poco ne parleremo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, Roberta Giordano con voi, al 349-238-6666, i vostri messaggi, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. L'ascoltatore di prima, quello che si scusa, dice, si chiama Lorenzo, benissimo, pace fatta. Allora, dicevo, tra poco vi ricordo quali sono le notizie più importanti, perché non tutti accendono puntualmente le 21, ma vi consiglio di farlo per rimanere aggiornati su tutte le notizie dall'Italia e dall'estero. Tra poco infatti ci trasferiremo all'estero a partire da quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Vi dicevo appunto, pagina Facebook di Effetto Notte, e poi fra le varie cose parleremo anche di politica italiana. Più tardi dovremo raggiungere anche, dovrebbe essere ospite, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, ma prima di tutto ripartiamo dalle notizie più importanti. Stati Uniti, l'ONU contro Trump, bando per lo bando degli islamici, è illegale e meschino, dice l'ONU. Intanto le associazioni musulmane in America intentano una causa federale. Strage in una moschea del Canada, attacco ai musulmani, un vile attacco, dice il primo ministro Trudeau, 6 i morti, il killer è un franco canadese che sarebbe, secondo i primi accertamenti, un fan di Trump e di Marine Le Pen, questo su Facebook. Renzi dice niente congresso PD straordinario, e D'Alema dice se non lo convoca è lui che impone la scissione, e parla di un partito a sinistra del PD che potrebbe superare il 10%. Giornata nervosa per le borse, l'Europa chiude in rosso, Milano brucia 14 miliardi e mezzo, grosse perdite per Unicredit. E poi maturità, latino al classico, niente fisica allo scientifico che era molto temuta, addirittura c'era stato un appello alla ministra dell'istruzione Fedeli di non farlo uscire. E poi prima volta di una campagna di comunicazione per quanto riguarda la maturità. A Casal di Principe Villa Scarface diventa un centro per disabili per la prima volta, tra l'altro nel processo per il presunto accordo tra Stato e mafia Totò Riina dice che accetta di rispondere in aula. Quindi proseguono negli Stati Uniti, dicevamo, le proteste e le polemiche dopo la decisione del neopresidente Donald Trump, il presidente americano, di congelare per 4 mesi l'immigrazione e vietare l'ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di 7 paesi islamici. Su questa decisione è intervenuto anche l'ONU con l'alto commissario del Consiglio per i diritti umani, che ha definito il divieto di ingresso nei confronti dei cittadini di 7 paesi islamici illegale e meschino, e non si fanno attendere i primi effetti. Il Parlamento iracheno ha deciso di adottare il principio della reciprocità, impedendo, quindi vietando l'ingresso ai cittadini americani per 90 giorni sul territorio iracheno. Poi c'è stata anche la replica dell'Unione Europea per voce di Federica Mogherini, che era alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, che ha detto: in Europa abbiamo una storia che ci ha insegnato che potresti finire in carcere se costruisci tutti questi muri attorno a te. L'Unione Europea, dice Mogherini, continuerà a lavorare con tutti i paesi della regione, a prescindere dalla loro religione, a prendersi cura e ospitare i rifugiati siriani e altri che fuggono dalle guerre. Poi, come sentivate prima, i musulmani d'America hanno deciso, le associazioni musulmane in America, di intentare una causa federale. La stessa Europa non comprende, non approva questo atteggiamento di Trump. Una petizione di milioni di firme in Gran Bretagna, la stessa cancelliera tedesca Merkel dice che questo atteggiamento di Trump non ha nessuna giustificazione. E ci colleghiamo quindi con gli Stati Uniti con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore. Marco, buonasera a voi. Quindi proseguono queste proteste e cresce, diciamo, il disappunto, insomma, a livello internazionale, sembra. Sì, sicuramente cresce ancora il caos, l'incertezza, le reazioni polemiche, le critiche alla decisione di Trump, che però pur con alcune leggere correzioni nel corso del weekend, in particolare riguardo dei residenti permanenti di chi ha, cioè la carta verde, però non dà segno di voler fare marcia indietro di alcun genere. Ha difeso a spada tratta il suo ordine, ha detto che la sicurezza del paese è al primo posto, America first, e che in realtà i disagi non sarebbero stati così gravi come invece è stato dimostrato dalle immagini, dalle inchieste e dalle denunce, ma anche in questo caso ha citato così l'effetto sia delle proteste che della stampa, che addirittura di disguidi ai computer della Delta Airlines, che ha sostenuto hanno creato confusione, non il suo ordine. Marco, dopodiché Trump mi sembrava, appunto, come hai detto tu, che a un certo punto avesse mitigato un po' questa sua decisione, però diversi ascoltatori, anche osservatori, ricordano che anche Obama aveva fatto una cosa del genere, di sospendere per qualche tempo. Beh, questo è uno dei miti, diciamo. Un'altra, diciamo, possiamo dire che Trump, diciamo, a questo punto sta conquistando una fama di usare fatti alternativi. E questo è uno di questi. Come ha dimostrato il Washington Post, Obama non ha mai fatto nulla del genere. E in dettaglio, Obama nel 2011, quello che successe in due parole è questo. Furono arrestati due profughi iracheni in Kentucky per accuse di terrorismo. L'FBI aveva dimostrò che uno dei due di sicuro aveva messo mano a ordigni esplosivi quando era in Iraq ancora, quindi costruendo ordigni esplosivi che erano stati usati contro le truppe americane e contro le autorità irachene, contro la popolazione irachena. A quel punto i due furono arrestati e il rischio che si poneva in quel momento molto concreto, a quel rischio, diciamo, di terroristico, Obama rispose con un riesame delle pratiche dei rifugiati iracheni per essere sicuro che fossero stati quelli che erano già stati accolti, fossero stati controllati a dovere, e con un rafforzamento delle misure di controllo sui nuovi rifugiati iracheni che entravano, e questo provocò dei ritardi. Non ci fu mai alcun divieto, mai alcuna sospensione dei visti o degli ingressi basati sulla genericamente, no, sulla nazionalità. Fu una risposta concreta a un fatto concreto, a una minaccia concreta, e fu gestita, diciamo così, nella maniera più indolore possibile, se così si vuole. Certo, provocò dei ritardi perché le misure di controllo imposero alcuni ritardi nella concessione dei visti, ma non ci fu alcun tipo di divieto, come invece ha sostenuto la Casa Bianca di Trump. Senti Marco, tra l'altro c'è da notare anche tutta questa reazione di tante grandi aziende, no, di multinazionali. C'è certo. La Starbucks, per esempio, che ha detto: allora adesso assumeremo 10.000 profughi, no? Ha detto qualcosa del certo. genere. E sì, poi le altre aziende. La reazione è abbastanza. La Silicon Valley, forte. No? Esatto, la reazione è molto forte, e devo dire, e forse da questa reazione del business, diciamo, a 360 gradi, si può anche capire quanto questo ordine si stia trasformando un po' in un boomerang, o comunque stia creando davvero grossi problemi al paese e in generale all'amministrazione Trump. Come sia stato mal concepito, al di là delle intenzioni del giudizio politico sulla sostanza, sull'ordine, ma anche proprio mal concepito nella gestione. Sembra che non avessero neanche consultato le autorità dell'immigrazione nel disegnare quest'ordine, nel prepararlo, che dimostra, diciamo così, una priorità politica piuttosto che tecniche di sicurezza nell'emettere l'ordine. Quindi, diciamo, che spiega anche forse perché è stato così mal concepito e mal eseguito. Ecco, la reazione della corporate America, delle aziende americane, illustra tutte queste difficoltà. Silicon Valley, da Apple a Microsoft a Google, ma anche la General Electric, ma anche Starbucks, appunto, sono di fatto insorte contro questo tipo di ordine generalizzato contro i rifugiati, contro i visti delle persone in arrivo da questi sette paesi, ed è sceso un nuovo gelo dopo un temporaneo disgelo che c'era stato proprio tra Trump e la Corporate America, tra Trump e anche Silicon Valley, con alcuni incontri che si erano verificati, anche diciamo definiti costruttivi da entrambe le parti, tra la nuova Casa Bianca e i leader dell'high tech americano. Grazie Marco Valsani da New York. Ciao Marco. Grazie a voi. Ciao, buona continuazione. Quindi abbiamo appena parlato di Trump e con Trump ci colleghiamo a un'altra importante notizia del giorno. Il presidente americano Trump ha chiamato il primo ministro canadese Trudeau per esprimergli le condoglianze dopo l'attacco a una moschea a Quebec City e gli ha offerto anche assistenza al primo ministro canadese. Di cosa parliamo? Di questo assalto, appunto, a colpi di arma da fuoco, dove sono rimasti uccisi 6 fedeli, 8 sono le persone rimaste ferite, le vittime sono uomini tra i 35 e i 70 anni e c'è anche tra loro l'imam della moschea. 2 persone sono state arrestate all'inizio, dopo ore convulse poi la polizia di Quebec ha precisato che uno dei fermati in realtà era che di origini marocchine, era forse solo un testimone, mentre l'esecutore materiale sarebbe un franco-canadese, Alexandre Bissonnette, che ha 23 anni, originario di Cap Rouge, sarebbe uno studente di antropologia dell'Università Laval, quella con la maggior numero di studenti stranieri di tutto il Canada. Secondo il sito canadese La Presse, tra l'altro nella sua pagina Facebook, Bissonnette avrebbe espresso apprezzamenti per Donald Trump e Marine Le Pen, quindi sarebbe, diciamo, distante dalla jihad, perché ci si è chiesti oggi naturalmente se era un attacco anti-islamico oppure se erano integralisti islamici che attaccavano magari la moschea considerando i fedeli dei moderati. E poi qualcuno ha sentito anche un testimone, avrebbe sentito gridare all'Akbar, no, in arabo, Dio è grande. Il primo ministro Trudeau ha definito l'assalto un attacco terroristico contro i musulmani, dice: i musulmani canadesi sono una parte importante della nostra nazione, la diversità è la nostra forza, la tolleranza religiosa è un valore che come canadesi abbiamo caro. E sicuramente conosce questi valori Irene Zerbini. Ciao Irene. Ciao Roberta, buona serata a tutti. Che è giornalista, voce di Radio 24, che per molti anni ha vissuto in Canada, no? Dove è diretto Radio 1 Toronto. Quindi se tu dovessi giudicare il Canada in questo momento, di cui appunto si parla pochissimo in genere, come ti spieghi questa cosa? Visto che appunto lo stesso ministro Trudeau, il primo ministro, dice la diversità e la tolleranza fanno parte, proprio sono dei cardini della nostra nazione. Io credo che ogni tentativo di spiegazione a questo punto sarebbe piuttosto un'illazione. Questo giovane attentatore, tra l'altro, è un dettaglio non da poco, ha chiamato la polizia, cioè si è costituito, ha detto: sono pentito di quello che ho fatto, sto per spararmi, venite voi a salvarmi, per cui richiama piuttosto una psichiatria di quelle che esigono un intervento immediato. Quindi fare un quindi un caso soggettivo, dici, di probabilmente di squilibrio mentale. È molto presto, però anche altri imam e altri rappresentanti musulmani canadesi hanno precisato: attenzione, questo è secondo noi un attacco che in qualche modo era stato organizzato prima della stretta sull'immigrazione di Donald Trump, grazie a quel clima islamofobo che si è diffuso negli ultimi mesi e che la destra estrema, anche parte del Partito Conservatore in Canada, ha contribuito a cavalcare. Quindi hanno richiamato un'altra volta l'attenzione al peso delle parole che in Canada vengono prese molto sul serio. Penso sia molto importante, Roberta, capire che è un contesto molto diverso. Possiamo partire anche da una delle vittime. Ora si stanno identificando le 6 vittime. Per esempio, sono note le generalità solo di 2. Uno di questi è un professore universitario arrivato dall'Algeria 10 anni fa. Ha partecipato recentemente a un convegno sulla chimica internazionale in cui rappresentava il Canada. Perché è importante questo? Perché l'integrazione in Canada è una cosa che avviene immediatamente. Cioè in 2 anni si acquista la cittadinanza, come l'ho acquistata io per esempio. E questo in qualche modo mina, sgretola le basi della marginalizzazione, perché tantissimi tra gli immigrati canadesi sono dei contabili, dei professionisti, dei sindaci, dei parlamentari, degli avvocati, cioè possono procedere nella scalata, chiamiamola così, ai gradini sociali una volta che entrano nel paese. E questo fa sì che in Canada quando tu viaggi anche semplicemente in macchina, a destra, a sinistra, guardando fuori dal finestrino, ti capita ma frequentemente di vedere una moschea accanto a un tempio sikh, accanto a una chiesa cristiana o cattolica. Ci sono 90 moschee in un paese che ha 35 milioni di abitanti. Quindi multiculturalismo, integrazione, senza grossi disagi, insomma, dici, no, Irene. Ma perché non sono solo parole, ci sono delle politiche di sostegno della diversità, per cui i miei figli, paradossalmente, essendo figli di un'immigrata, avevano diritto ad andare a seguire dei corsi di italiano il sabato. Lo stesso succedeva ai figli degli indiani, ai figli dei portoghesi, ai figli degli algerini, a ognuno la propria lingua, che veniva valorizzata, per cui il fatto che tu porti una diversità in Canada è considerato un valore non solo umano, non solo a difesa dei diritti umani, un valore economico. Il Canada si sente un paese fragile dal punto di vista demografico, dice abbiamo solo 35 milioni di abitanti, dobbiamo competere col mondo. Più la nostra popolazione invecchia, più abbiamo bisogno di immigrati. Non è un caso che Justin Trudeau non solo abbia accolto da quando c'è, cioè dal 2015, 4 novembre, 39.000 immigrati, ma è andato personalmente all'aeroporto a prenderli. Non è un gesto solo formale. Certo. Grazie Irene Zerbini, chiarissimo questo ritratto che ci hai fatto del Canada. In effetti adesso capiremo come va avanti l'inchiesta, ma sembrerebbe davvero un caso sporadico di squilibrio psichico. Grazie Irene Zerbini, adesso ci prendiamo questa pausa, voi continuate con i vostri interventi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. A proposito di politica italiana, di cui parleremo tra pochissimo, Nino scrive: D'Alema falena, non arriva al 5%, il fatto che uno dei principali artefici della fine della sinistra si erga suo difensore e rappresentante oscilla tra il ridicolo e il patetico. Francesco scrive: ogni tanto a sinistra qualcuno si atteggia ad alternativo, ma come canta Noemi sono solo parole. Gianluca scrive: un'idea di Stato, non una scissione. Io voglio idee, presupposti, azioni di una sinistra laica nel 2017. Non è possibile, c'è un po' sconsolato. Invece Simone dice: il 10% degli italiani ancora andrebbe dietro a Baffino. Non ci voglio credere. A proposito appunto delle affermazioni di D'Alema, che poi sentiremo, che avrebbe detto ci spinge la scissione Renzi, se non facesse il congresso andiamo alla scissione, e un partito alternativo di sinistra potrebbe prendere oltre il 10%. Ne parleremo a momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Tra pochissimo ripartiamo, ma con la politica italiana. Vi ricordo però quali sono le notizie principali. Stati Uniti, americani in piazza contro il bando agli immigrati di Trump, il presidente contestato anche nelle grandi aziende dall'Europa, e l'ONU parla di divieto illegale e meschino. Canada, attacco alla moschea a Quebec City, 6 morti, sospettato un giovane franco-canadese. Il primo ministro Trudeau parla di un vile attacco ai musulmani. Roma, via libera al bilancio di previsione 2017-2019 della capitale. Raggi e Movimento 5 Stelle applaudono le fibrillazioni nel PD. Il presidente Orfini torna sul tema della scissione: non fa bene alla sinistra, dice, ma D'Alema avverte, senza congresso si va alla scissione, a un nuovo partito che potrebbe superare il 10%. Nel frattempo il sindaco di Napoli Luigi De Magistris annuncia la nascita di un nuovo movimento politico. De Magistris lo sentiremo più tardi. Partiamo adesso dai tormenti del PD, degli annosi tormenti del Partito Democratico. Il presidente del PD Matteo Orfini, a margine oggi di un convegno, ha parlato di possibile voto anticipato a giugno. Sentiamo. Penso che si possano fare le modifiche necessarie e tornare al voto entro una data ragionevole, che può essere giugno. E a proposito dei reiterati rischi, annunci, diciamo così, di scissione, Orfini ha detto così: la scissione è sicuramente qualcosa che non fa bene alla sinistra. Tra l'altro la storia della sinistra è piena di scissioni che non hanno quasi mai portato bene agli scissionisti. Io credo in questo momento i nostri elettori, il nostro popolo non voglia scissione, voglia unità. E a questo proposito della scissione, D'Alema, a carta bianca su Rete 3, ha detto: senza un congresso sarà Renzi che farà la scissione, che imporrà una frattura, è normale. E dice: un nuovo partito a sinistra supererebbe il 10%. Sentiamo. Se nasce un nuovo partito della sinistra in Italia, in modo serio, diciamo, coinvolgendo le forze che penso si siano disponibili a farlo, questo partito certamente supererà il 10% dei addirittura voti. Addirittura, diciamo. MAPA si sta sbilanciando molto. Sì, ma faccio una previsione perché oltretutto abbiamo fatto fare dei delle sondaggi ricerche, che... diciamo. Adesso parliamo di un movimento politico che sta per nascere. Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha annunciato questa imminente nascita di una nuova creatura, un nuovo movimento politico, e ha specificato nelle prime dichiarazioni di voler sì annodare il filo con altre esperienze, ma molto diverso da quelle liturgie tradizionali, ha detto, di un centrosinistra che guardiamo da lontano. E noi lo guardiamo con molto interesse per capire effettivamente di cosa si tratta, e c'è in collegamento proprio il sindaco Luigi De Magistris, che saluto. Buonasera sindaco. Buonasera a voi. Un nuovo movimento, dice sì, che va, guarda altre esperienze, non so se lei si riferisce a Pisa Pia, D'Alè, ma poi ne parleremo, ma questo movimento in cosa consiste esattamente? Ma innanzitutto il movimento già esiste ed è quello che ha portato a due grandi vittorie elettorali nella città di Napoli, sì. Cioè il frutto di una grande partecipazione attiva di tanti concittadini, al di là degli schieramenti politici tradizionali. Anche in questi 5 anni e mezzo il governo del territorio, attraverso una capacità di connessione con la gente, ha prodotto un movimento politico. Adesso abbiamo deciso tutti insieme di cominciarci a organizzare, perché lo spontaneismo, la militanza improvvisa, le campagne elettorali e il governo della città non bastano. Napoli è diventata in qualche modo essa stessa un movimento politico, visto che siamo completamente autonomi da tutti i partiti, governiamo in controtendenza rispetto alle politiche nazionali, e quindi abbiamo deciso di organizzarci con questa, che prima era solo un'associazione culturale, poi una lista elettorale. DEMA diventa un movimento politico, sarebbe Democrazia Autonomia, con il simbolo dell'Agorà. Diceva la sua associazione DEMA, che sta anche per De Magistris, quindi dare una struttura, diceva, a questa partecipazione spontanea che c'è stata in questi anni e che ha portato appunto al suo governo a Napoli e a continuarlo fino al 2021. Ma dicevamo il Pisapia, Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, che ha avuto più o meno, almeno all'inizio, un'esperienza simile alla sua, no? Di partecipazione dei cittadini, sa che sta formando questo campo progressista che guarda un po' a sinistra del Partito Democratico, poi non si sa se insomma si allierà nel momento delle elezioni. Lei vede con interesse, cioè non si sarebbe unito volentieri a questo movimento, a questo, come possiamo chiamarlo, campo progressista appunto di Pisapia, o pensa che appunto la sua sia un'esperienza autonoma, come diceva, diversa? Ma cerchiamo, è diversa, cerchiamo di fare chiarezza, sì. Con Pisapia ci sono state delle analogie ma anche delle differenze. Lui è stato eletto nel campo tradizionale del centrosinistra, io 5 anni e mezzo fa fui eletto, che avevo un avversario del PD, centrosinistra, l'avversario Movimento 5 Stelle, l'avversario centrodestra e addirittura terzo polo. Adesso Pisapia propone un qualcosa che si è già visto, c'è un rafforzamento della sinistra all'interno del centrosinistra, ma in schieramenti che il paese ha già visto. Noi guardiamo a qualcosa di completamente diverso, nel senso che con Sinistra Italiana, per esempio, stiamo in coalizione nel governo della città, quindi sicuramente in ragionamenti di carattere generale ci può stare sempre un'interlocuzione, magari in alcuni casi anche un'alleanza, ma il movimento che cui pensiamo noi è completamente diverso, cioè non è un partito, non sono i recinti tradizionali della politica, non ci sono recinti, né vorremmo assomigliare ai 5 Stelle, che è un movimento di cui avvertiamo incoerenza e anche frenesie di espulsione. Noi vediamo invece una connessione con i movimenti, le associazioni, i comitati, gli amministratori locali, tutti quelli che in questi anni si sono contraddistinti nelle battaglie per i beni comuni, la difesa della Costituzione e la partecipazione popolare dal basso. Quindi qualcosa di veramente nuovo e autonomo. Sindaco De Magistris, sa che forse a giugno ci potrebbe essere il voto anticipato, bisogna vedere, insomma, per il momento sono voci, ipotesi. Lei pensa che questo suo movimento potrebbe già essere pronto e così strutturato e forte eventualmente da presentarsi già alle prossime elezioni, o è ancora in divenire e sarebbe prematuro? Penso assolutamente di no, lei prima l'ha precisato, lo voglio precisare anche io. io faccio il sindaco a tempo pieno, H24, l'ho fatto nei primi 5 anni e mezzo, lo farò fino al 2021. Noi abbiamo bisogno di costruire questo movimento, di far crescere esperienze territoriali. Credo che saremo presenti in alcune amministrative qui nell'area metropolitana di Napoli, ma tenderei ad escludere una partecipazione alle politiche sia a giugno e anche qualora si dovesse votare agli inizi del 2018. Per adesso a noi interessa consolidare questa esperienza politica, metterla in connessione con altre esperienze nel sud, nel centro e nel nord del nostro paese. Dialoghiamo con sindaci europei, insomma è un movimento che vuole costruire la politica dal basso, ma non ha l'ansia della scadenza elettorale imminente, non ci interessa in questo momento. Per parlare del suo lavoro di sindaco, per l'appunto lei dice fino al 2021 mi devo occupare di questo 24 ore su 24. Il 6 febbraio ci deve essere questo vertice, no? Anche con il ministro De Vincenti per la bonifica di Bagnoli, quindi per il patto per Napoli. Lei da qui al 2021 che cosa vede di programmabile per Napoli, per la crescita della città? Ma tantissime cose, sicuramente il risultato ottenuto nella cooperazione internazionale col governo per il patto per Napoli è stato molto utile, perché sono progetti di rigenerazione urbana, di infrastrutture, di scuole, di ambiente e di territorio. Il 6 febbraio vorremmo ripetere il metodo patto per Napoli anche per Bagnoli, che come ricordo a tutti è un quartiere di Napoli, quindi non vedo perché ci debba essere una corsia diversa. Io credo che le istituzioni, quando si siedono allo stesso tavolo, nel rispetto reciproco e negli equilibri predeterminati dalla Costituzione e dalle istituzioni democratiche, si può portare a casa un risultato importante. La volontà del territorio è decisiva per ogni prospettiva di sviluppo, e quindi se c'è il rispetto per il territorio, chiaramente il nostro rispetto nei confronti delle altre istituzioni è scontato e possiamo fare un bel lavoro insieme. Un'ultimissima domanda, sindaco De Magistris, varchiamo un po' i confini nazionali. La notizia dominante sui media internazionali in questo momento è Trump, no? Con le sue decisioni. Che cosa ne pensa lei del nuovo presidente americano? Ma si presenta molto male, lo devo dire con sincerità. Un presidente degli Stati Uniti, un paese di grandi tradizioni democratiche, che i primi due atti sono: voglio costruire un muro ai confini col Messico, non faccio entrare negli Stati Uniti, che è stato il paese dell'accoglienza, vediamo New York, la più grande città cosmopolita del mondo, dice i siriani non posso entrare, gli iraniani non posso entrare, gli iracheni non possono entrare, l'esatto contrario di Napoli, che invece è città rifugio nel cuore del Mediterraneo, una città che crede nelle diversità, crede nei ponti di dialogo e invece non crede nelle mura, nel filo spinato, nell'odio e nel respingimento. Credo che stanno cambiando gli equilibri nel mondo e come ogni crisi ne dobbiamo cogliere anche le opportunità. Forse è venuto il momento di non morire di austerità, tra virgolette morire, di non morire tra virgolette di nazionalismi e di odi, e costruire un mondo più uguale, più giusto, insomma un mondo che abbia un maggiore ascolto dei bisogni delle popolazioni, che sono quelli di giustizia, uguaglianza, pace e solidarietà. Grazie sindaco Luigi De Magistris, un saluto a Napoli allora, buon lavoro a lei. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Siamo sempre insieme, Roberto Giordano con voi, le notizie ve le ricordo tra poco in pochi secondi. Stavo guardando intanto questo messaggio di Cristiano sulla pagina Facebook di Effetto Notte a proposito sempre della politica italiana, delle scissioni o rischi o minacce di scissione nel PD. Non so davvero se una scissione creerebbe più libertà o più disagi nelle mille lacerazioni di questa sinistra raccogliticcia, ma se devo scegliere fra la rottura e la convivenza scelgo ovviamente la prima, segnerebbe almeno una sferzata nel gioco dei valori. Vi ricordo quali sono le notizie più importanti, che sono appunto a partire dagli Stati Uniti le decisioni di Trump sugli immigrati, di congelare appunto il bando per gli immigrati, che sta scatenando manifestazioni, proteste di piazza, ma anche interventi da parte dell'Europa, la contrarietà dell'Europa e l'ONU stesso che parla di divieto illegale e meschino. In Canada, attacco alla moschea a Quebec City, 6 morti, sospettato un giovane franco-canadese. Il primo ministro Trudeau parla di un vile attacco ai musulmani. Mercati finanziari nervosi oggi, il Dow Jones scivola sotto i 20.000 punti, Milano la peggiore in Europa, Unicredit cede il 5%, Roma via libera al bilancio di previsione 2017-2019 della capitale, Raggi e Movimento 5 Stelle applaudono, e poi l'avete appena sentito, delle fibrillazioni nel PD, il presidente Orfini torna sul tema della scissione, dice non fa bene alla sinistra, ma D'Alema avverte senza congresso si va alla scissione, un nuovo partito della sinistra potrebbe superare il 10%. Avete appena sentito Luigi De Magistris, qui a Effetto Notte, sindaco di Napoli, che ha annunciato questa nuova creatura politica, e poi maturità 2017, l'attesa è finita, pubblicata la lista delle materie per la seconda prova d'esame, allo scientifico non ci sarà la temuta fisica, e adesso spazio europeo. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Apriamo il dossier della cyber security. Secondo una recente ricerca, la sicurezza informatica delle aziende italiane è ad alto rischio. Una violazione su tre va a buon fine, senza che le difese delle nostre imprese possano far nulla. Cyber security è l'argomento di moda in queste settimane, ma se le difese degli Stati Uniti hanno mostrato vistose falle, almeno a detta dell'intelligence a stelle e strisce, come siamo messi in Italia? Viene fatto abbastanza per proteggere le aziende dal momento che spendiamo il 10% della Francia ed una frazione risibile degli Stati Uniti? L'impressione è che non riusciamo a far fronte né agli attacchi degli hacker russi, ma nemmeno a quelli di uno studente di informatica più sveglio degli altri. Il crimine informatico è forse la minaccia più concreta ed economicamente dannosa nei prossimi anni. Con il passaggio alla tecnologia cloud, intere vite aziendali sono ora accessibili ai cybercriminali. L'Europa su questo è in grande ritardo dal momento che si è concentrata troppo sui big data ed ha trascurato la sicurezza di reti ed infrastrutture. Questo scenario offre anche però opportunità di lavoro. A decretarlo è una delle principali aziende globali di antivirus. I giovani, dicono, con competenze in campo tecnologico potrebbero colmare un gap in espansione se i datori di lavoro cercassero di combattere le crescenti minacce del cybercrime ed evitare che vengano rovinate vite pubbliche e private. Ma il settore non fornisce un percorso chiaro ai giovani per trovare lavoro, perfezionare le competenze e servire le società. Anche perché entro il 2020 il mondo rischia di essere a corto di 1,5 milioni di professionisti di cyber security. Per questo bisogna investire proprio sui giovani. Ne parliamo con l'europarlamentare Stefano Maullu. Qual è la situazione in Italia in termini di minaccia e di investimento per contrastarla? È una situazione che non è lusinghiera, gli investimenti non sono adeguati a quello che è il pericolo globale che può arrivare sia per gli impianti di sicurezza del nostro paese, in particolare quelli militari di trasmissione dati, che vedono le reti telefoniche e soprattutto quelle televisive essere degli obiettivi principali, e poi per le grandi, grandissime aziende che devono avere la possibilità di essere messe in sicurezza, soprattutto per il comparto più strategico, quello energetico, quello industriale. E l'Europa come è messa in termini di sicurezza di reti? Manca una strategia, un approccio globale che veda collaborare tutti i paesi. Qualche paese ha delle punte di eccellenza, altri veramente sono molto molto marginali, rispetto soprattutto ai grandi player mondiali che utilizzano l'informatica e gli attacchi cyber per avere informazioni e per poter garantire più competitività attraverso questi attacchi informatici ai loro paesi, ovviamente a discapito degli altri. Quindi quali sono le strategie che devono essere messe in campo per contrastare questo tipo di crimine? Ma io credo che occorra un salto di qualità, soprattutto per poter garantire un'uniformità di protocolli che consenta alle aziende europee, a questo nostro grande continente, di fare massa critica in un mondo dove la globalizzazione non è semplicemente commerciale, ma si basa sulle informazioni, sulla tecnologia che cresce ovviamente di giorno in giorno e che quindi deve essere messa in sicurezza, soprattutto per chi, come noi, è sempre avanti rispetto agli altri comparti mondiali. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Rieccoci ancora insieme, e sto vedendo degli aggiornamenti, delle notizie che riguardano Trump. C'è questa che dice: la Casa Bianca respinge le critiche dei diplomatici che hanno manifestato il loro dissenso contro la decisione del presidente Trump sul bando agli ingressi negli Stati Uniti da 7 paesi a maggioranza musulmana. Tra l'altro vi faccio notare che in questo elenco di 7 paesi non c'è l'Arabia Saudita, e dice la Casa Bianca: se questi diplomatici non aderiscono al programma se ne possono tranquillamente andare. Questa è la replica della Casa Bianca ai diplomatici che non sono d'accordo sulle decisioni di Trump. E poi la petizione in Gran Bretagna contro questa decisione del presidente americano supera a questo punto 1,5 milioni di firme, quindi insomma diciamo c'è un certo malcontento intorno, e poi probabilmente avrà anche il suo consenso all'interno, no, degli Stati Uniti. Per i vostri messaggi, ritorniamo sulla politica italiana con Annalisa da Roma, che scrive: D'Alema ancora parla, con punto interrogativo esclamativo. E poi dice invece un altro ascoltatore: mi dispiace, ma il caro Renzi non ha niente di sinistra, è il peggiore dei democristiani, quindi io non voterò più PD. Gianni da Bologna. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Leggo anche questo messaggio a proposito di integrazione. Scrive questo ascoltatore: io sono un ragazzo macedone di fede islamica, arrivato in Italia 16 anni fa, mi sento molto integrato grazie alla scuola italiana e ai bravi prof che non facevano nessuna differenza tra me e i ragazzi italiani. Grazie, dice a noi, dell'attenzione, continuate così, siete molto bravi. Ringrazio il ragazzo macedone, mi fa piacere di questa sua integrazione, del fatto che insomma si sia trovato bene. L'importante appunto è essere cittadini onesti, chiaramente, che hanno voglia di fare, di studiare, di migliorarsi, di lavorare, di rispettare diritti e doveri come tutti. Su questo non bisognerebbe assolutamente transigere. E poi ancora i vostri messaggi. Andrea si sofferma sul Mattarellum, dice: si vuole fare davvero e sarebbe un passo avanti rispetto a due sistemi disomogenei. I numeri al Senato ci sono, col Mattarellum magari con qualche correzione che aumenti il peso del proporzionale rispetto ai collegi uninominali, se serve, e occhio serve, ma ci sono. E direi che con questa analisi politica potremmo temporaneamente lasciarci, poi sapete che torno ad aggiornarvi brevemente alle 22.